Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buona domenica a tutti da Gegè Telesforo e buona domenica a Francesco Tromba. Ciao a tutti. Sì, siete in contatto con The Groove Master Studio per il soundcheck di Radio 24, la prova del suono che questa sera vi presenta in tutto il suo splendore, in tutta la sua bellezza musicale e fisica, un artista come Becca Stevens. E sono felicissimo, finalmente riusciamo a dedicare, visto che è stato appena pubblicato il nuovo album intitolato Regina, a dedicare una puntata intera a una delle mie cantanti, ma anche compositrice. Che vuoi dire di Becca Stevens? Cantante, compositrice, eccellente chitarrista, una bella ragazza, una insegnante, ragazza per bene, insegnante di musica, fa masterclass in tutto il mondo, preparatissima, amata da tutti i musicisti, musicisti di tutti i generi, dalla musica classica al jazz, al contemporaneo, all'R&B. Che puoi dire di Becca Stevens di più, se non che è una ragazza speciale? Che il prossimo regalo per te sarà una statua di Becca Stevens a grandezza naturale. Senti, adesso non fare lo spiritoso, Tromba, non fare lo spiritoso. Certamente appena avrò la possibilità di andare a New York farò di tutto per incontrare Becca Stevens, per conoscerla e anche per farle magari un'intervista per il nostro programma. E magari anche per collaborare, perché no? Anche se io so una cosa, perché c'è un mio amico che si chiama Luigi Sidero, che gestisce vari management di artisti internazionali molto forti, che mi ha detto che sta facendo di tutto per portare Becca Stevens in Italia, soltanto che proprio in virtù di questo nuovo contratto discografico con la Ground Up, ovvero l'etichetta di Michael League, producer di questo album di Becca Stevens, ma anche leader e producer degli Snarky Puppy, e quindi avrei capito come stanno le cose, Becca Stevens ha una richiesta abbastanza elevata per il mercato italiano, perché negli Stati Uniti sta iniziando ad andare bene, in Inghilterra ancora meglio che negli Stati Uniti, ma in Italia non ancora la conoscono per poter chiedere quegli importi. Si potrebbe pensare magari a un doppio concerto con gli Snarky Puppy, no? Si potrebbe pensare magari, una cosa, potrebbe. Lo dico ai promoter dei concerti di Becca Stevens in Italia per la prossima estate: portate Becca Stevens qui nel mio studio. Io promuovo Becca Stevens e naturalmente ve la coccolo come posso e la accompagno pure in giro per le date italiane. Pensa tu, fai proprio il lavoro completo. Mi piace tantissimo. Comunque adesso, senza scherzare, il disco è fantastico, Francesco. Eh sì, è riuscita a dare una qualità ancora maggiore rispetto al precedente lavoro, che già aveva una qualità fantastica. Perfect Animal già aveva comunque degli standard altissimi e andare oltre non era assolutamente scontato. Sì, 2 anni di lavoro, tra l'altro ha collaborato, come abbiamo detto, non solo con Michael League, che è producer di alcuni brani di questo album, che poi viene distribuito, come dicevamo, dalla Ground Up, ma c'è anche la partecipazione di David Crosby, di Lauren Vula e di un signorino inglese chiamato Jacob Collier. Eh sì, insieme sono veramente fantastici. Insieme con questa loro versione di Yes di Stevie Wonder mi hanno proprio fatto molto molto male, ma anche molto molto bene, perché mi sono commosso ascoltandola e poi analizzando proprio l'arrangiamento, e questi sono bravissimi, sono veramente dei campioni. Eh sì, che dire, manca solo il Grammy Award. Allora, che vogliamo dire? Che vogliamo dire? Non c'è niente da dire, ragazzi. Questa è la musica che voi dovete ascoltare, questa è la musica che voi dovete comprare. Fate sentire il disco di Becca Stevens intitolato Regina, qui con la partecipazione di Jacob Collier, ai vostri amici cantanti. Ecco, questo bisogna fare. Fate sentire ai vostri amici cantanti un disco così, perché questa è una vera lezione di stile. Ma non solo, anche i musicisti, perché comunque i musicisti coinvolti in questo progetto sono veramente bravi e veramente fantastici. Sì, veramente una lezione di produzione, di classe. Ecco, magari il sound non è molto vicino al nostro, ma forse sì, perché noi per esempio abbiamo fatto una puntata del nostro soundcheck dedicata ai nuovi cantautori che stanno recuperando un po' le sonorità old school con la presenza presenza della chitarra acustica, sì, più che dell'impianto elettronico come si fa per il pop scanzonato. Sì, o anche comunque l'ukulele, che è molto presente nei lavori di Becca Stevens, anche nei precedenti. Va bene, Francesco, raccontiamo qualcosa di questa ragazza. Sì, allora, intanto volevo raccontare subito che questo lavoro è incentrato sulla figura, è ispirato alla figura della regina Elisabetta I, quindi ci sono testi molto vicini comunque al femminismo, comunque ispirati da una grande donna che appunto era la regina Elisabetta I. Ritornando a Becca Stevens, partiamo appunto dall'inizio, cioè lei inizia a suonare quando aveva 2 anni, perché suo padre è un arrangiatore, un musicista, e sua madre è anche una insegnante di canto classico, quindi ecco, diciamo, nasce fortunatamente per lei in una famiglia dove la musica è proprio di casa. E già da quell'età inizia a suonare nella band di famiglia, perché anche suo fratello è un musicista, e mettono su questa band dove appunto tra il gioco e la serietà comunque suonano tantissima musica grazie ai suoi genitori. Allora, Becca Stevens la ascoltiamo da un album di qualche anno fa, del 2011, quello con il quale, non il primo album che ha realizzato, ma quello con il quale si è fatta notare anche da noi. Brano proprio che dà il titolo a questa produzione, Weightless, Becca Stevens Band. Soundcheck. Il suono della musica. Vi stiamo presentando il nuovo lavoro di Becca Stevens intitolato Regina, questa è la title track di questa produzione incredibile. Il disco suona benissimo, guarda Francesco, l'ho già ascoltato diverse volte, è veramente un gran disco. Sì, vi consiglio assolutamente di procurarvelo, perché merita del tutto il vostro ascolto attento. Mi stavi dicendo che Becca Stevens si è ispirata a una figura leggendaria, una figura femminile come quella della regina Elisabetta, ma secondo te che cosa viene fuori da questo album, ascoltandolo? Quali sono le emozioni che ha scaturito in te? Allora, a parte, diciamo, anche dal punto di vista proprio dei testi, che comunque portano avanti un'idea di femminismo, ma non solo di femminismo, proprio di figura femminile come appunto centrale per la società in generale, a cui ispirarsi in continuazione. Oltre a questo, dal punto di vista musicale è un passo ulteriore avanti rispetto agli album precedenti, perché dal punto di vista della produzione, della qualità dei musicisti, della musica che c'è dentro è veramente importante, perché ho già Perfect Animal aveva una qualità altissima, e andare oltre è ancora una volta non era del tutto scontato. Questo è il quarto album di Becca Stevens ed è stato veramente una parabola crescente continua, ecco, la sua carriera. 4 album a suo nome, ma quante partecipazioni ha fatto negli ultimi anni? Sì, ha fatto tantissime partecipazioni con musicisti, tra l'altro fantastici tutti, di grandissima qualità, che l'hanno chiamata, l'hanno cercata anche quando ancora lei non era del tutto famosa, non era famosa al grande pubblico. Ora poco a poco sta diventando accessibile un po' anche a tutti, perché comunque dal punto di vista magari delle sonorità non è quel pop che ascoltiamo facilmente in tutte le radio, no? Anche negli Stati Uniti, voglio dire, non solo in Italia. Assolutamente. Però piano piano sta crescendo e secondo me crescerà sempre di più, perché la sua idea è quella di puntare sulla qualità. Per arrivare attraverso la qualità è un percorso sicuramente più lungo rispetto ad arrivare attraverso il pop. Ci arriverà, e naturalmente i collaboratori per questo album, abbiamo già citato i guest, no? Da Jacob Collier, sì. Lauren Vula, David Crosby, prodotto da Michael, c'è anche Alan Hampton, e poi comunque sono presenti tutti i ragazzi della Becca Stevens Band, quelli originali. Sì, e poi tra l'altro diciamo proprio, diamo 4 riferimenti. Becca Stevens è la cantante preferita di Kurt Elling, che è un altro campione certo, mondiale certo, di vocalità. Tra l'altro lei ha lavorato con Taylor Hightsey, sì, pianista meraviglioso, con con Brad Meldau, quindi voglio dire, cioè già arrivata comunque a collaborare con i migliori musicisti, fra i migliori musicisti al mondo. Allora, ascoltiamo qualcosa da Perfect Animal del 2015, Becca Stevens Band, e questa è la sua versione di Thinking About You, un successo di Frank Ocean. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. 45 bucks dall'album Regina, la voce, gli arrangiamenti, la musicalità e la grazia di un'artista contemporanea che diventerà senz'altro un punto di riferimento per il futuro, forse anche della nostra musica. Becca Stevens è lei, la protagonista della puntata di oggi, che andiamo comunque a chiudere perché non vorrei rubare tanto tempo anche al prossimo brano tratto dal nuovo album. Sì, un'altra cosa che volevo ricordare, l'abbiamo già detto in realtà altre volte, è che questo album è stato finanziato anche attraverso Pledge Music, che è una piattaforma super moderna tramite cui appunto i fan possono entrare nella produzione proprio vera e propria, possono contribuire alla produzione del disco. Ma anche sostenere la produzione entrando in contatto con l'artista stesso, acquistando varie cose di riferimento, sì, messe in vendita sul sito. E il suo bouquet di offerte era molto particolare, c'era, come ricordiamo, una partita a baseball nel parco con Michael League degli Snarky Puppy, ma c'era anche gli haiku dedicati proprio da Becca Stevens, c'era anche una chitarra firmata da lei che si poteva acquistare, mandando tre parole lei poteva farti anche una canzone di 30 secondi così improvvisata. Perché non ha messo in vendita una cena con lei a Manhattan? No, potevi andare però a prendere il tè con lei. Ah, sì? Sì, sì. Ma è ancora valida? No, ormai no, il disco è scaduto. Tra l'altro ha raccolto il 119%, quindi è andato oltre quello che era il budget iniziale, sì, e quindi hanno raccolto poi di più. Che ha fatto? Il resto che ha fatto? Se l'è tenuto? Non credo, non so se l'ha restituito, magari ha fatto una donazione, te lo so dire, questo non è noto ancora. Fatto sta che prima o poi il tè con Becca Stevens lo devo prendere. Sì, assolutamente. Ma o il tè o un piatto di tortellini o di lasagne, come ha detto ieri Joanna Titters, che è rimasta fulminata dalla cucina italiana. Sì, puoi fare magari un corso di cucina con Becca Stevens. No, lei deve fare il corso di cucina con me. Certo, tu gli insegna a cucinare la pasta. È lei che mi insegna. Hai voglia? Non lo so. È un sacco di roba, guarda. Becca Stevens chiude il soundcheck di Radio 24. L'album, lo ripeto, si chiama Regina, è bellissimo. Non perdete l'occasione per ascoltare una grande produzione, una grande artista e una bellissima esperienza ascoltare questo disco. Guarda che è difficile esprimersi con questi termini. Noi non lo facciamo quasi mai. Essere così entusiasti non è nel nostro stile. Fantastica, fidatevi. Becca Stevens, But Still Here, e qui c'è ancora lo zampino, la partecipazione di Jacob Collier. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo, anzi vi ringrazio sul serio, grazie, perché stiamo riscuotendo con gioia tanti vostri consensi che arrivano via Twitter, attraverso i vari social network. Vi ringraziamo perché sappiamo di essere, non voglio dire un punto di riferimento, ma insomma di fare per voi uno sforzo. Facciamo uno sforzo perché lavoriamo tanto per selezionare la musica e quindi ci ripagate con la vostra simpatia e i vostri messaggi, naturalmente ci fanno piacere. Grazie a tutti voi, di cuore, da Giorgia Telesforo e da Francesco Tromba. Ciao a tutti.